24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, ci siamo anche oggi, cari ascoltatori. Il mio penultimo giorno, poi però mi chiedono: 24 mattino rimane, continua tutta l'estate, non ci fermiamo come lo spread, non è che andiamo in vacanza. E ringrazio e saluto Fabio Cantadori qui in regia, tutto contento perché torna Cacà, beato lui. Speriamo anche nel ritorno di Franco Baresi, Roberto Donadoni e Virdis in attacco, la metteva dentro spesso, noi del Milan. Allora, parleremo oggi un po' di casta, avremo ospiti il presidente dell'associazione ex consiglieri regionali del Lazio, perché c'è stata una decurtazione del vitalizio contro il quale molti di loro di questa associazione fanno ricorso. Poi parleremo di questo referendum, raccolta di firme per referendum per tagliare una parte dello stipendio dei parlamentari, tutto un po' in sordina, una raccolta firme anche un po' misteriosa, i promotori accusano c'è un boicottaggio mediatico. Ne parleremo oggi alle 8:30 ed ora via i giornali in edicola. È giovedì 26 luglio, qualche apertura, Il Sole 24 Ore, mini piano europeo anti-spread, questo è il titolo di prima pagina per La Stampa. Francia e Spagna, l'UE agisca, mentre Libero, come salvarsi se salta l'euro. Queste le aperture dedicate alla situazione economica e finanziaria europea. In Italia invece, per il Corriere della Sera, i partiti a Monti, basta sacrifici. Repubblica, corruzione, indagato Formigoni. Il Messaggero, sanità, indagato Formigoni. E il Fatto Quotidiano, chi l'avrebbe mai detto, Formigoni indagato. Mentre il Manifesto, la sporca dozzina, corruzione con aggravante internazionale. La sporca dozzina forse perché è perché il dodicesimo della maggioranza di centrodestra indagato, ecco perché la sporca dozzina per il Manifesto. Il Giornale invece mette in prima pagina una lettera di Marina Berlusconi. Marina accusa, per l'Unità riforme, boicottaggio PDL, mentre Avvenire, mezza Europa in trincea. Questi alcuni titoli dei giornali, ma voglio andare subito, ci sono tante di quelle spassose notizie legate al mondo della casta oggi che non so da che parte incominciare. E per rovinarvi la giornata, ovviamente, no, bonariamente lo dico come al solito. Inizio dal Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, già nel titolo c'è tutta la notizia. Bonus al dirigente in galera da mesi. Succede la regione Molise, racconta Gian Antonio Stella. Bravo, gli ha detto la regione Molise, gli ha dato un bonus di 13.099 euro in aggiunta allo stipendio. Peccato che Elvio Carugno sia in galera. Carugno è accusato di aver rubato soldi regionali, il che conferma come la distribuzione dei premi messi a bilancio sotto la voce merito avvenga con criteri a pioggia che col merito non hanno niente da spartire. La storia poi continua a pagina 22, inizia in prima pagina. Il titolo è Il Molise premiò il dirigente in galera. Gian Antonio Stella racconta che la distribuzione di 805.046 euro di bonus ai dirigenti della regione Molise sono arrivati a tutti, come succede sempre, tutti bravi, senza nessuna classifica di merito, tutti bravi, 68 dirigenti, tutti quelli della regione premiati. Tra questi però, appunto, anche tra i dirigenti benedetti dalle gratifiche, Elvio Carugno, in galera da mesi con l'accusa di peculato aggravato e continuato. Pochi giorni fa l'ennesima richiesta di andare almeno agli arresti domiciliari gli è stata respinta. Secondo i giudici, infatti, potrebbe scappare, magari in Venezuela, dove sarebbe finito in parte, probabilmente a una donna più o meno misteriosa, il milione di euro circa, stando alle indagini, scomparso dalle pubbliche casse. Dunque l'accusa di aver rubato alle pubbliche casse un milione di euro, gratificato con un premio da 13.099 euro. Premio produttività, immagino. Questa è la storia che proviene dal Molise. Mentre in Sicilia, la Sicilia dove c'è una crisi di liquidità, questa è l'unica ammissione che ha fatto il governatore Lombardo, beh, c'è stato un contrappasso clamoroso, straordinario per qualcuno. Già vi vedo stappare una piccola bottiglia di, non so, di champagne. Perché sappiate che, siccome c'è crisi di liquidità, gli stipendi dei deputati regionali di luglio al momento non sono stati pagati. Emanuele Lauria su Repubblica: insorgono i deputati siciliani, dateci subito i nostri soldi. La crisi alla fine ha colpito anche uno dei simboli della casta, l'Assemblea regionale siciliana. La carenza di liquidità della regione ha fatto slittare il pagamento degli stipendi di luglio e ieri è esplosa in aula la rabbia dei 90 parlamentari isolani. Guadagnano d'altronde dai 10 ai 15 mila euro netti al mese. E allora sentite cosa ha detto il presidente dell'Assemblea Francesco Cascio: mai nella sua storia l'Assemblea è stata trattata come un fornitore o come una società partecipata. Come dire, a un fornitore gli si può dare i soldi in ritardo, a una società partecipata pure, come se non lavorassero i fornitori per una pubblica amministrazione, ma mai all'Assemblea regionale siciliana si può dare lo stipendio in ritardo. Mai nella storia è successa una roba del genere. Tra l'altro racconta Emanuele Lauria in conclusione del suo articolo che trovate a pagina 7 di Repubblica. Tutte queste parole sono state dette davanti a un uomo, un deputato messinese che ha vinto una sorta di lotteria, Marcello Bartolotta, è subentrato solo ieri a un collega che si è dimesso. Rimarrà in carica se Lombardo si dimetterà il 31 luglio fino a ottobre alle prossime elezioni, e dunque Bartolotta percepirà per 4 mesi quasi 40.000 euro di stipendio, per partecipare in tutto da qui a ottobre a 4 sedute programmate dell'Assemblea regionale siciliana. 10.000 euro a seduta, sedute che poi possono durare magari anche 10 minuti, un'ora, non so, 2 ore. Questa è la sua fortuna. Vogliamo continuare sul secolo XIX in prima pagina. Vi ricordate che di recente c'era stato uno scandalo di molti consiglieri della regione Liguria che andavano, firmavano il registro e incassavano il gettone di presenza a 90 euro, non granché, però in questi tempi di vacche magre 90 euro, andavano, firmavano il registro, non partecipavano alla seduta, risultavano presenti. Allora, ieri è successa una cosa straordinaria, racconta il secolo in prima pagina: 2.000 euro di gettoni per non decidere sui gettoni, questo è il titolo. La vicenda è presto detta. La commissione della Regione Liguria, Commissione Affari Istituzionali e Generali, si è riunita, presenti 24 consiglieri su 31, dovevano decidere se darsi nuove regole per gestire la questione del gettone di presenza. Hanno fatto tutta la seduta, non hanno trovato un accordo, costo della seduta di ieri 2.000 euro in gettoni di presenza. E quindi è straordinario. Dovevano decidere su come regolare il gettone di presenza. L'accordo alla fine non è arrivato, la seduta è stata sciolta con 2.070 euro di gettoni di presenza erogati. Allora, come concludere tutta questa prima parte di notizie che vi ho dato? Forse con la straordinaria intervista che trovate sul Fatto Quotidiano all'onorevole Guido Crosetto, intervistato da Carlo Tecce, la trovate a pagina 9. Il titolo è così: alla Camera siamo inutili, regalo soldi ai deputati poveri. È un'ammissione di Crosetto che dice: sento la colpa addosso, non la capisco, non la riconosco, faccio parte di una categoria disgraziata. Non siamo mica tutti stronzi qui a Montecitorio, non siamo tutti inutili. Io parto il venerdì e torno la domenica, mi sbatto, lotto, non mi interessano indennità, vitalizio. Io ho un'azienda che va avanti a Cuneo dal 1936. Quando un amico mi chiede un aiuto, gli voglio bene davvero, io rispondo presente, gli do soldi, presto soldi. A che tasso di interesse, onorevole? Ma meno di zero, faccio donazioni. Io mi interrogo con la mia coscienza. E che le dice l'ultima volta la sua coscienza? Mi ha promosso, io non rubo, non ozio, non baro, mi sento una persona leale. Io con la politica ho perso tanto, sa? Che cosa, Crosetto? Chiede Carlo Tecce. Beh, l'onore. Vedo gli occhi dei cittadini, percepisco la rabbia. Eccolo un altro che vive sopra le nostre spalle. E i miei parenti l'invidio. Quando passeggio con mio fratello, imprenditore, avverto di essere l'uomo sbagliato, quello che non vorrei essere. I passanti credono che io sia una sanguisuga. Ho un'idea che qualcuno deve realizzare. I cittadini devono conoscere quanti soldi anno per anno pagano di tasse. Io ne ho pagati tantissimi. E insomma, è un Crosetto che dice: è incredibile, sono quasi rassegnato, tutto si distrugge, io sono preoccupato per le prospettive economiche, i partiti fanno le trattative per la legge elettorale più furba oppure per trovare nuovi simboli. Io non prendo soldi, li regalo, ma non scriva così, può sembrare una pubblicità fastidiosa e involontaria. Non voglio neanche apparire, vorrei fare, se non mi riesce me ne vado a Cuneo, e tanti, tanti cari saluti. Insomma, l'onorevole Crosetto che dice appariamo solo come dei farabutti, ma non è così, e sicuramente ha anche ragione. L'intervista la trovate sul Fatto Quotidiano. E allora sono le 7:35 minuti, eccoci qua con la situazione economica e finanziaria che è quella che è tempesta, per esempio dice il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che ha parlato di situazione complicata. È una situazione difficile sicuramente anche in Europa, anche se, come titolo oggi in prima pagina al Sole 24 Ore, c'è il mini piano europeo anti-spread. Di cosa si tratta? Lo racconta Alessandro Merli a pagina 3. Il piano antispread per guadagnare tempo è questo, è bastata una frase del governatore della Banca d'Austria, Ewald Nowotny, ieri mattina a ridare fiato ai mercati. Cosa ha detto Nowotny? Ha detto: vedo buone ragioni per dare una licenza bancaria al fondo salva stati. E lo ha detto uno che è considerato tra i falchi della Banca Centrale Europea. E dunque, nonostante la misura sia ancora tutta da discutere, presenti molti ostacoli di natura legale, potrebbe essere un tassello decisivo di una sequenza di interventi per stabilizzare i mercati dell'area euro. Tale sequenza sarebbe questa: la Spagna chiede l'attivazione, assoggettandosi a una serie di impegni del Fondo Salva Stati. A questo punto il Fondo Salva Stati, l'unico al momento funzionante, potrebbe intervenire acquistando titoli di Stato spagnoli. La BCE farebbe semplicemente da agente, come previsto dagli accordi europei. Dunque questo potrebbe essere il primo piano per salvare e intervenire almeno in Spagna, il via libera agli acquisti a partire da agosto sul mercato primario. Che la situazione sia grave, ieri lo ha confermato anche il Premier Mario Monti, che ha incontrato, non è stato proprio un vertice con quelli lì, no? A, B, C, Alfano, Bersani e Casini, li ha visti separatamente. E che cosa ha detto? Racconta Lina Palmerini a pagina 7 del Sole 24 Ore. La situazione è grave. Ci vuole più unità politica, una drammaticità del momento che c'è tutta, ha ammesso Mario Monti. Questo almeno si evince dagli incontri, poi dalle indiscrezioni che sono emerse dagli incontri. Anche il Corriere della Sera, pagina 5, nell'articolo di Andrea Garibaldi che parla di questo incontro, il titolo è chiaro: Monti chiama i partiti, la situazione è seria. Il Premier vuole che cosa? Vuole una maggioranza solida, e i leader di PD e PDL avvertono: ora basta sacrifici. Tra l'altro c'è un'analisi politica di Francesco Verderami, sempre molto attento riguardo a quello che succede in politica, secondo il quale tatticismi sfrenati allontanano le urne. La paura qual è dei partiti? È che nessuno è pronto in questo momento, o meglio, sono tutti timorosi di finire in fuorigioco. Questa è la metafora calcistica utilizzata da Francesco Verderami, e quindi con questa inerzia la prospettiva di andare al voto rimane quella del 2013. Non è la visione, per esempio, del Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano mette a pagina 4 una frase attribuita a Mario Monti nell'articolo di Marco Palombi, che è questa: Mario Monti ha definito scoraggiato, lo ha spiegato anche a Giorgio Napolitano, il capo dello Stato, definito il regista del suo arrivo a Palazzo Chigi. E cosa avrebbe detto Monti, è anche il titolo dell'articolo: il mio governo ha fatto tutto quello che poteva. Questo, lo stesso Fatto Quotidiano dice, è quello che avrebbe detto il Premier al capo dello Stato. E dunque, secondo questa frase, ma siamo sempre sulle possibilità e sulle eventuali dichiarazioni non confermate, il risultato è che l'avventura dell'ex presidente della Bocconi, scrive il Fatto Quotidiano, alla guida dell'esecutivo volge al termine, e dunque riforma della legge elettorale, voto in autunno nelle prime due settimane di novembre, questa sembra essere la decisione finale dei partiti. In realtà di queste cose di finale in questa situazione non c'è niente, ogni giorno c'è un'idea e poi il giorno dopo viene confermata o no. Certo, si parla molto di sprechi, si parla molto di tagli, si parla molto, la settimana ancora della spending review, del cercare di recuperare soldi di qua e di là. E a questo proposito vi voglio segnalare che cosa? Beh, tutti i giornali riportano l'allarme lanciato dall'ANCI, l'Associazione Comuni, in questo caso è stato il vicepresidente Alessandro Cattaneo, che è il sindaco della città di Pavia, a lanciare questo allarme molto molto secco, che suona così: ad agosto c'è il rischio che molti comuni non abbiano i soldi per pagare gli stipendi ai loro dipendenti. Per esempio è stato citato il caso di Lecce, non so se sia vero, ma il vicepresidente dell'ANCI Alessandro Cattaneo dice così: alcuni comuni, tra cui anche capoluoghi come Lecce, iniziano ad avere difficoltà di cassa e ad agosto non potranno pagare gli stipendi. Allora agosto è tra 5 giorni, e se l'allarme è vero e confermato è un qualcosa di molto molto serio e grave, mentre il governo ieri ha smentito in maniera categorica. Questa volta, come dicevamo ieri, in questi casi ci vogliono smentite secche, non smentite all'acqua di rose. Ha smentito in maniera secca il fatto che possa esserci un congelamento delle tredicesime per gli statali e per i pensionati. Il governo non ha mai preso in considerazione il blocco delle tredicesime. Palazzo Chigi ha smentito così in maniera dura, finalmente, l'ipotesi prospettata da un'associazione di categoria, cioè la Confesercenti, nei giorni scorsi. Tra l'altro, a proposito di spending review, ci sono due belli articoli, uno sul Corriere della Sera di Lorenzo Salvia a pagina 8 e uno a pagina 7 di Libero. Sono rispuntate le lobby, che i lobbisti, cioè sono rispuntati, nel senso che in questi giorni ci sono i lobbisti, coloro che fanno pressioni, sono persone, rappresentanti, che ne so, ci sono i rappresentanti delle province, stanno lì giorno e notte, seguono le sedute parlamentari, ovviamente fuori, hanno messo addirittura una transenna, il presidente della commissione bilancio del Senato ha fatto mettere la transenna antilobby, cioè come dire, i lobbisti non possono superare questa transenna perché stiamo lavorando, perché cosa fanno? Fanno pressione, cercano di avvicinare i parlamentari, spiegare che certi provvedimenti vanno cambiati, ovviamente in nome di interessi legittimi, si può fare così, in America è tutto codificato, per esempio ci sono i lobbisti, è una professione vera e propria, seria. Qui in Italia magari si cerca di fare un po' tutto come al solito, un po' raffazzonato, si cerca di avvicinare il parlamentare, si sta fino alle 2, alle 3 di notte per cercare di spiegargli il perché un provvedimento debba essere cambiato. Comunque, agguati e staffette, lobbisti in azione, questo è il titolo dell'articolo che trovate sul Corriere. A pagina 8 Lorenzo Salvia racconta: la linea Maginot venne aggirata dai tedeschi passando da nord attraverso la foresta delle Andenne. La transenna antilobbisti viene aggirata passando dal retro grazie al corridoio che fa il giro del piano rotolo e sbuca diritto a Parigi, cioè davanti alla commissione bilancio del Senato. Per esempio, sono molto attive le province, molto molto attive. Questa per esempio è la pressione che i lobbisti delle province stanno cercando di fare, salvare almeno laddove ci sono le regioni con due province, salvarle tutte e due. Non si capisce perché una regione non possa mantenere una sola provincia. E allora eccolo qua, casta mobilitata per salvare Isernia e Matera. Hanno avvicinato il ministro Patroni Griffi, PD e PDL, con due relatori, Pichetto Fratin del PDL e Paolo Gialetta del PD, ha mostrato un emendamento per salvare le province delle regioni che hanno solo due province, alle quali con l'accorpamento rimarrebbe una sola provincia. E non si capisce perché questa cosa dà fastidio. Una regione con una sola provincia evidentemente non sa da fare. Quindi bisogna che in Umbria, Basilicata e Molise vengano salvate anche le seconde province, cioè Terni, Matera e Isernia, che verrebbero invece a scomparire. Il tutto inizia, tra l'altro è bellissima l'idea, perché guardate, inizia così: l'idea nasce dal PD che vuole salvare Terni, e poi l'idea anche quella di salvare Matera. A questo punto il PDL cosa fa? Chiede che oltre a due regioni di centrosinistra fosse beneficiata da questa regola anche una di centrodestra, cioè questi sono i ragionamenti. Ci sono due regioni di centrosinistra che salvano le due province, allora bisogna salvare anche una regione di centrodestra che salva, e quindi anche la richiesta di salvare il Molise e Isernia. Ecco, questo sta succedendo in questi momenti al Senato, dove c'è la transenna anti-lobbisti. In tema di tagli invece vi confermo che il presidente della RAI Tarantola ha deciso di decurtarsi lo stipendio da 450.000 a 366.000 euro, mentre il direttore generale della RAI Gubitosi ha chiesto di trasformare il suo rapporto in Rai da tempo indeterminato a tempo determinato. Queste sono gli annunci che erano stati fatti ieri e sono stati confermati. A livello politico poi molti giornali aprono con l'inchiesta e ora la richiesta di l'informativa per cui risulta effettivamente ora indagato Roberto Formigoni. Il Corriere della Sera da giorni, da giugno credo, diceva e scrisse: Formigoni è indagato, Formigoni ha sempre smentito, l'avviso di garanzia è arrivato. L'avviso di garanzia ha accuse gravi alle quali Formigoni ha risposto in maniera molto perentoria: non mi dimetto, anzi ha detto tutto qui le accuse, speriamo di andare a processo, vincerò 12-0. Yacht, viaggi, una villa, tangenti per 7 milioni in cambio di 15 delibere. Questo è il titolo dell'articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. Parto da questo perché furono loro a svelare che Roberto Formigoni era indagato, questo già a giugno. Ieri c'è stata la conferma ufficiale della Procura di Milano e raccontano Ferrarella e Guastella: ancora martedì notte in TV Formigoni assicurava Serioso di non essere indagato, hanno scritto e riscritto il falso, la riprova è che la Procura di Milano nulla ha trovato da ridire né sul presidente di Regione Lombardia né sull'ultimo degli usceri. E raccontano Ferrarella e Guastella: sugli usceri effettivamente no, ma sul presidente di Regione Lombardia qualcosa sì. L'accusa, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, dai 2 a 5 anni di carcere, aggravata dal carattere transnazionale del reato, aumento di un terzo della pena, per quasi 7 milioni di euro di controvalore patrimoniale dei molteplici benefit messigli a disposizione da Pierangelo Daccò, il mediatore ricompensato con 70 milioni in 10 anni dalla Fondazione Maugeri per il suo ruolo di facilitatore nei rapporti tra questo importante polo privato della sanità italiana con base a Pavia e i meandri amministrativi del Pirellone. Accuse alle quali Formigoni ieri ha fatto un'inchiesta, una conferenza stampa dicendo: sono accuse ridicole, è tutto qui, vincerò 12-0. Certo che basta vedere. Ovunque in Puglia ieri abbiamo scoperto che anche Vendola è indagato per una nomina di un primario. Oggi sempre sul Corriere della Sera il presidente dell'Emilia Vasco Errani è stato richiesto il giudizio per lui perché per 1 milione di euro concesso nel 2006 dalla regione da lui presieduta a una cooperativa agricola Ravennate Terre Emerse, di cui all'epoca era presidente il fratello Giovanni, indagato per truffa. Il governatore Errani disse: sono pulito, andrò spontaneamente alla procura di Bologna. Ebbene, adesso è stato richiesto il rinvio a giudizio per lui. Insomma, c'è un governatore in Italia che non è indagato? Sì, certo, è una domanda proprio provocatoria. Poi un'indagine non è certo un'accusa e non è una condanna, per carità. Ma insomma, questa è la situazione. Iena sulla stampa è durissimo, oggi un graffio davvero, no? Formigoni, corruzione e liberazione. Questo Iena, Riccardo Barenghi sulla stampa, pagina 3, nella sua rubrica Iena. E nella sua rubrica solita, insomma, oggi intitolata Formigoni. Che dire, c'è poi la trattativa Stato-mafia ancora in primo piano. Devo registrare che Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, fa una lettera. Per la verità è una cosa un po' strana. La lettera è pubblicata sia sul Giornale che sul Libero. Però sul Giornale c'è una versione più estesa, sul Libero una versione un po' più ridotta. Comunque, lei che è stata chiamata alla procura di Palermo per parlare di questi soldi finiti dai suoi conti, da presunti soldi finiti dai suoi conti a Dell'Utri, Marina Berlusconi scrive una lettera. Vai a trovarla, non è che sto prendendo tempo, eccole qua, forse l'ho trovata, la prima pagina di Libero e del Giornale. Marina Berlusconi: sulle vicende palermitane che mi riguardano volevo mantenere un rispettoso silenzio, ma ora non posso più tacere, vorrei raccontare una storia che qualcuno chiamerà di giustizia. Eccola la storia. Il 9 luglio vengo convocata dalla Procura di Palermo come persona informata dei fatti. Peccato che i presunti fatti su cui dovrei essere informata li apprendo solo qualche giorno dopo dai giornali. Ma parlare di fatti è totalmente fuori luogo, paginate e paginate di falsità. Sempre dai giornali apprendo che si parla di un conto cointestato mio e di mio padre, da cui sarebbero partiti due dei bonifici indirizzati a Dell'Utri e ai suoi familiari. E qui c'è la conferma del conto a sua insaputa, è ufficiale. Sentite Marina Berlusconi. Io però di questo conto non ricordo neppure l'esistenza. Faccio le verifiche e in effetti emerge che è esistito fino a 7 anni fa, anche se non ho mai avuto la disponibilità e a mia memoria non l'ho mai utilizzato. Cosa devo andare a dire alla Procura di Palermo? Che di questo conto non ricordo assolutamente nulla dei bonifici della famiglia Dell'Utri, tantomeno? Che peraltro non trovo nulla di strano nel fatto che mio padre senta, direi, il dovere etico, oltre che il desiderio di sostenere un prezioso collaboratore, il quale all'apice del successo professionale è improvvisamente sprofondato in un incubo che da quasi 20 anni lo costringe a trascinarsi da un tribunale a una procura, un incubo che gli ha rovinato non solo la carriera ma anche la vita? È questa la pura verità, ma per dire questo è necessario che debba andare a Palermo? Insomma, questa è la lettera. Che poi sul giornale prosegue con l'accusa del fango mediatico. Non è questo che interessa, l'unico processo che interessa è quello che viene fatto ogni giorno sulla stampa, convocando testimoni buoni a ingolosire i telegiornali della sera. Però certo c'è la conferma di questo conto, evidentemente, come dicevamo ieri, a sua insaputa. A proposito di veleni legati alla trattativa Stato-mafia, c'è un altro PM che è finito nell'occhio del ciclone delle polemiche. Si tratta di Roberto Scarpinato, per il quale il CSM ha aperto un fascicolo per trasferirlo d'ufficio su richiesta di Niccolò Zancano, un consigliere laico. Perché? Perché Scarpinato ha detto queste parole, ve le cito testuali, alla ricorrenza della strage di Via D'Amelio il 19 luglio. Caro Paolo, rivolgendosi ovviamente a Borsellino, più trascorrono gli anni e più diventa imbarazzante partecipare alle cerimonie ufficiali che ricordano le stragi di Capace e Via D'Amelio. Stringe il cuore a vedere talora, tra le prime file, nei posti riservati all'autorità, anche personaggi la cui condotta di vita sembra essere stata la negazione stessa di quei valori di giustizia e legalità per i quali tu ti sei fatto uccidere. Personaggi dal passato e dal presente equivoco, le cui vite, per usare le tue parole, emanano quel puzzo di compromesso morale che tu tanto aborrivi. Se fosse possibile, verrebbe da chiedere a tutti loro di farci la grazia di restarsene a casa. E dopo queste parole molto dure nei confronti delle autorità, o alcune delle autorità non specificate, Roberto Scarpinato, PM, è stato aperto un fascicolo nei suoi confronti. Il Fatto Quotidiano titola pagina 6, dopo Ingroia tocca a Scarpinato. Mentre voglio andare, questa la dobbiamo dare di cronaca, perché allora uno può essere a favore o contro l'area C a Milano. L'area C è quell'area, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, di traffico limitato, ecco, adesso non so essere specifico, tutte le grandi città hanno, alcune grandi città hanno delle zone al traffico, diciamo bandite al traffico, cioè se entri paghi. L'area C è a Milano. Ora, uno può essere a favore, può essere contro, non importa, questo non è il tema della questione. La questione è che c'è stata una decisione, un Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato, ha dato ragione a un garage privato che ha fatto causa, ha detto questa area C ci danneggia perché è un garage all'interno dell'area C, e il Consiglio di Stato ha deciso che l'area C a Milano è sospesa. Da oggi potete entrare tranquillamente, non si paga più, in attesa di nuovi corsi, ricorsi. Un garage fa riaprire Milano alle auto. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Il Consiglio di Stato sospende l'area C per evitare danni economici a un privato. È un garage in largo Corsia dei Servi, dunque in pienissimo centro di Milano, struttura convenzionata col comune, tra l'altro, che si dice economicamente danneggiata dall'area C, e dunque ha fatto ricorso prima al TAR, e il TAR aveva respinto questo ricorso. Invece il Consiglio di Stato in appello ha accettato e accolto questo ricorso. Le doglianze sono state rivalutate in appello e sono risultate pesantissime. Risultato: il Comune di Milano, prendiamo atto della decisione, ora ci appelleremo, nuovi corsi, ricorsi, però nel frattempo, per tutelare gli interessi di un ricorrente, l'area C di Milano è sospesa. Il Corriere della Sera in prima pagina mette un commento dal titolo «Gli interessi economici di un garage e le strategie antitraffico di Milano», scrive Ugo Savoia, «con una di quelle ordinanze che si farebbe fatica a spiegare a uno straniero, il Consiglio di Stato ha sospeso l'area C. Non vogliamo ritornare sulle polemiche. Quel che stupisce è scoprire che un vizio di forma facilmente superabile, soprattutto gli interessi economici di un parcheggio sotterraneo, vengono ritenuti prevalenti su quelli di una città e della sua amministrazione. Così è in Italia. Allora, vi vogliamo raccontare questa storia. Ci sono alcuni ex consiglieri della regione Lazio che hanno fatto ricorso, hanno mandato diffide alla stessa regione perché il loro vitalizio è stato decurtato. La regione Lazio vuole applicare delle normative per decurtare il vitalizio, ma ci spiega tutto e lo saluto, lo ringrazio per essere con noi, il presidente dell'associazione ex consiglieri del Lazio, Enzo Bernardi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, intanto ci vuol dire subito a quanto ammonta il suo vitalizio, così per 5.600. Quanto ha fatto lei di... quanto è stato? Quattro legislature, dunque sono 20 anni. Esatto. 20 anni. Allora, e lei, mi risulta che lei sia uno dei ricorrenti. Sì, io sono uno dei ricorrenti, però vorrei, se mi consente, sì, anticipare subito una vicenda, perché ho letto tra l'altro sui giornali un coinvolgimento dell'associazione in questa storia. L'associazione in questa storia non c'entra assolutamente nulla, non è l'associazione che ricorre, tra l'altro non avrebbe neanche la legittimazione a farla, perché non è certamente danneggiata l'associazione da un procedimento di questo genere, e quindi l'associazione va tenuta fuori da tutta questa storia. Sono i singoli, alcuni singoli ex consiglieri. Sono alcuni consiglieri regionali, tra cui naturalmente anche il sottoscritto, non lo nego affatto, sì, che ritengono che il procedimento che è stato seguito dagli uffici della regione sia scorretto. Allora, vediamo se l'ho capita bene io così. Cioè, allora, la protesta nasce dalla finanziaria di Giulio Tremonti nel 2006 che tagliava lo stipendio dei deputati. Così la Regione Lazio a cascata ha detto: se si taglia lo stipendio dei deputati bisogna tagliare lo stipendio dei consiglieri che è commisurato a quello dei deputati, e quindi bisogna tagliare anche il vitalizio per gli ex consiglieri. Detto così è assolutamente ineccepibile. Il problema però è anche un altro, nel senso che su questo provvedimento della finanziaria Tremonti, fin dal 2005 quando fu approvato, le regioni, naturalmente non il Lazio, anzi a quel punto il Lazio fece solo delle rimostranze di carattere verbale e lì si fermò, ma esattamente la regione Campania, era presidente Bassolino. Ricorsi alla Corte Costituzionale sostenendo la tesi, che poi risultò giusta, che in materia di questo genere la competenza non fosse del Parlamento ma fosse delle singole regioni. La Corte Costituzionale nel maggio del 2007 accettò questa tesi e sentenziò che la legge, che la finanziaria Tremonti, non è, per quanto riguardava le competenze regionali, non poteva applicarsi. Senta, Presidente, questo dal punto di vista del diritto, poi ve la vedrete se lei ha fatto ricorso, se la vedrà. Però, ma certo, mi scusi, la decurtazione. Ha ragione chi ha torto, certo, questo è un problema assolutamente di carattere giuridico. Però capisce, Presidente, che dal punto di vista dei cittadini che sentono e dicono la casta, cioè quant'è la decurtazione che le hanno fatto ai 5.000? Il 10% fin dal 2006. Quindi invece di 5.600 euro, 560 euro di decurtazione. Le rimane comunque un ottimo vitalizio. Non mi lamento certamente. 5.000 euro al mese, voglio dire. Non ho alcunissima difficoltà ad ammettere che sia una cifra congrua. Congrua, non troppo. Naturalmente questo non riguarda tutti noi, nel senso che ci sono anche quelli che prendono molto meno, perché le tenga conto che i 5.600 sono la cifra di chi ha fatto 4 legislature. Sì, certo, c'è chi prende 3.000 euro. Chi ne ha fatta una sola, evidentemente prende molto molto di meno. Insomma. Però il problema va impostato più sul piano di carattere generale che sul piano di carattere personale. Lei sa che però non c'è una proporzionalità tra i contributi versati in 5 anni e quello che uno prende come vitalizio. Guardi, questo è il motivo per cui molti si arrabbiano contro questi vitalizi. Per qualcuno è addirittura negativo, forse può fare qualche calcolo. Tenga conto che i consiglieri regionali obbligatoriamente versano per questo fondo il 30% della loro indennità, ancora oggi. E quindi è chiaro che il 30% della loro indennità va a questo fondo. Fondo che poi viene naturalmente nel momento in cui si diventa ex, diventa vitalizio. Ma poi è cumulabile con altre pensioni, con altre. Cioè, è un vitalizio come tutti i vitalizi che esistono nel mondo, non c'è niente di diverso da quello degli altri. Non è un po' troppo rispetto a quello che uno versa e poi ottiene per. La battaglia contro i vitalizi della casta non la facciamo. Ma guardi, questo non lo deve dire ai singoli, lo deve dire una legge che c'è. e contro la quale personalmente io ebbi anche a suo tempo da obiettare sulla modalità, eccetera. Però questo è un discorso che nel contesto non c'entra nulla, nel senso che non è che è un capriccio del consigliere un'indennità o l'altra. Cioè la legge dice così. È fissata dalla legge e la legge stabilisce che c'è una percentuale, tutto qua. Però Presidente, sì, questo sì, Presidente Bernardi, appellarsi alla legge in un momento anche di crisi finanziaria come questo, secondo lei non deve far provare un pizzico di vergogna? Guardi, questa storia non è nata adesso, è nata nel 2006 e si è trascinata fino adesso per motivazioni diverse. Le dirò di più, in questo caso come associazione tentammo, perché era un discorso di carattere generale, tentammo un accordo con gli uffici della regione per trovare un punto d'incontro come tutte le altre regioni d'Italia, perché solo il Lazio è in queste condizioni. Tutte le altre regioni d'Italia non fanno alcuna decurtazione. Hanno recuperato il discorso. Ripeto, sentendolo da un cittadino che adesso, diciamo, la vicenda è emersa almeno mediaticamente adesso. Ed è un momento. Questo non lo posso evitare io. È un momento un po' particolare dal punto di vista finanziario. Ecco, la gente che capisce di questo suo ricorso per 500 euro, al di là della legge, del diritto, poi ci saranno sentenze che stabiliranno chi ha ragione. Cosa può capire una persona che vede una persona che si sta appigliando la legge per ottenere 5.600 euro e non ci... La prego, lei non mi dica appigliando una legge, perché il termine appigliare, se lo dice io, lei giustamente me lo rimprovererebbe. Ma io sono un giornalista, mica un avvocato. Cioè, appunto, neanche io, però insomma, se lei mi appiglierebbe da una sensazione che forse, ecco. Lei sta lottando per riottenere 560 euro. Il riconoscimento che la regione in quanto tale ha una competenza particolare e specifica su questa materia. Dopodiché, a giudizio avvenuto, non so se ci darà ragione o ci darà torto, naturalmente io ho già proposto come associazione agli uffici della regione di tentare di cercare un punto d'incontro. Non l'ho avuto, ho avuto solo risposte negative. E quindi a questo punto, ha fatto ricorso. Dal 2006 a oggi, siamo arrivati al punto che non c'è altra strada. Chi dovrà decidere dal punto di vista giudiziario? Cioè il giudice? No, sì, ma di chi? Cioè a chi si fa ricorso in questi casi? Al giudice civile. Al giudice civile, che deciderà? Deciderà con i tempi della giustizia abbiamo civile. Abbiamo naturalmente tutti i tempi per recuperare. Comunque dice non si prova nessuna vergogna perché è un diritto che è acquisito e quindi i cittadini si mettano l'animo in pace. Per carità, io posso anche concordare se lei mi dice che la cifra è... Per carità, non discuto. Noi stiamo discutendo sulla possibilità per lo Stato di eccepire sulla legislazione. Sì, ma Presidente, questo l'ho capito, ma c'è un principio in punta di diritto e anche un principio, se vuole, anche gli esodati avevano fatto una firma e poi gli hanno cambiato le regole in corsa. Cioè, in questo momento può capitare, capisce? Perché la situazione finanziaria dell'Italia è difficile. Guardi, concordo decisamente da questa analisi, non mi sento certamente di dire che va tutto bene. E quindi se vi chiedono 560 euro nel suo caso, uno dice vabbè, farò questo sacrificio. Ma guardi che questa storia non è nata adesso, è nata prima ripeto, nel 2006, siamo a oggi. E tra l'altro se ne riparlerà probabilmente nel 2015-2016. Diciamo 6 anni fa le hanno chiesto di togliere 560 euro, non era un sacrificio enorme, cioè, visto la congrua cifra che lei già prende. Scusi, abbia pazienza. 19 regioni su 20 hanno fatto l'inverso della regione Lazio. E quindi o lo fanno tutti o... Scusi, per carità, io non discuto, io concordo sulla situazione economica, figuriamoci, sulla drammaticità, per carità. Però le dico, 19 regioni su 20 hanno fatto diversamente. Perché Lazio fa così? Questa è la domanda che le fa. Questa è la domanda che ho posto agli uffici e mi sono sentito rispondere che così si deve fare. Presidente, io la ringrazio, siamo in attesa. Ci faccia sapere il giudice civile con i tempi della giustizia civile. Lo facciamo abbondantemente in tempo. Speriamo a risolvere anche la situazione finanziaria del paese. Bene, la ringrazio per essere stato io con noi. Ringrazio lei. Enzo Bernardi è il presidente dell'Associazione Ex Consiglieri Regionali del Lazio, che ci ha raccontato perché a titolo personale, non come associazione ma a titolo personale, con lui anche scriveva al Fatto Quotidiano, circa 33 ricorsi sono arrivati, più o meno, ma altri ne arriveranno. Questo come numero di ex consiglieri che dicono non capiamo perché si debba decurtare il 10% del nostro vitalizio, perché in punta di diritto è è tutto sbagliato. Allora, noi dopo la pubblicità e il meteo parleremo di questa vicenda, di un referendum, una raccolta firme, per la verità, per un referendum popolare. Siamo stati subissati anche noi di invettive, anche è una vergogna, non parlate della raccolta firme per il referendum popolare per tagliare una parte dello stipendio dei parlamentari. Si può andare nei comuni ancora, credo, qualche giorno, forse entro oggi, entro il 31, non so, per depositare queste firme, e nessuno ne parla, come se sulla vicenda della lotta alla casta ci fosse una cappa dell'informazione. È l'argomento forse più trattato negli ultimi anni. Comunque ne parleremo tra poco, questo referendum, perché secondo qualcuno invece è una bufala, nel senso che è una raccolta firme che è già destinata a fallire nel momento in cui vengono raccolte. Anche noi qui a 24 mattino, nella nostra mail 24 mattino e radio24.it, sulla pagina Facebook 24 mattino, siamo stati subissati da mail indignate di persone che ci scrivono e ci hanno scritto: ma come, non parlate della raccolta firme per una richiesta di referendum popolare per tagliare una parte degli stipendi parlamentari, quella parte che si chiama diaria, l'altra parte, l'indennità, non può essere toccata per legge. Perché c'è questa raccolta firme? Ne servono 500.000, si può andare nei comuni, firmare, moltissimi italiani l'hanno già fatto. Il problema nasce proprio qui. Ma questa raccolta di firme promossa dall'Unione Popolare, questo organismo Unione Popolare, è una raccolta di firme legittima, cioè nel senso che stanno rispettando le regole, oppure, come qualcuno ha accusato, è una perdita di tempo, nel senso è un qualcosa che non porterà a nulla e si sa già, insomma, per dirlo in una parola, è una vera e propria bufala. Noi cercheremo di capirlo. Intanto saluto il professor Tommaso Edoardo Frosini, che... buongiorno professore. Buongiorno a lei. Lei insegna, docente di diritto pubblico comparato a Napoli. Oh, intanto professor Frosini, devo dare una prima notizia. Noi abbiamo preso appuntamento con Maria Di Prato, che è la coordinatrice del movimento Unione Popolare, cioè del referendum, che coloro che stanno organizzando queste firme. Il cellulare è spento. già questa non è una notizia. Vabbè, evidentemente, non, per carità, le batterie a volte succede. Intanto ci aiuti a capire qualcosa. Lei che ne pensa di questa raccolta firme, per la quale, ripeto, molti italiani, ci stanno arrivando anche molti messaggi adesso di gente che dice: io ho firmato, chiamatemi, vi spiego perché, eccetera, perché sono andato in comune a firmare. Lei che ne pensa? Bah, dunque, il fatto che si chiedano, si continuino a chiedere nel nostro paese del referendum è un segno di vitalità democratica, direi, no? Di recente la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore del referendum andando a incidere sulla norma che ripristinava la possibilità di privatizzazione o di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, fra cui il servizio idrico, e una sentenza di qualche settimana fa la Corte ha detto: non è possibile ripristinare la normativa perché questa è stata abrogata per via referendaria tramite la volontà popolare. Quindi partiamo da questa premessa: il referendum è senz'altro qualcosa di utile, che aiuta, diciamo così, a mantenere alto il tasso di partecipazione democratica in un paese liberal democratico. Sì. Il punto però è che il referendum abrogativo nel nostro ordinamento è previsto sì dalla Costituzione, all'articolo 75, che spiega quali leggi non possono essere sottoposte al referendum, qual è il quorum, eccetera, però poi viene dettagliato da una legge che è stata approvata nel 1970, la numero 352, la quale spiega quali sono, diciamo, le procedure per consentire che si possa fare una richiesta di referendum. Ora, fra queste procedure c'è quella, per esempio, che fa divieto che si possa chiedere un referendum, si possa depositare una richiesta, sì, di referendum l'anno precedente alla scadenza della legislatura. Perfetto. Quindi la scadenza della legislatura del 2013, già una regola fissata per legge che non si possono depositare firme raccolte nel 2012 in questo caso. Quindi richiesta di referendum, qui è chiarissimo, è l'articolo 31 della legge numero 352 del 70, non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due camere nei 6 mesi successivi alla data data di convocazione dei comitati. Però gli organizzatori, sì, il comitato referendario, mi dispiace davvero che Maria Di Prato, che ha preso appuntamento con noi, magari la recuperiamo, eccetera, forse abbiamo recuperato un altro cellulare, stiamo dall'altra parte cercando di recuperarla, al momento non risponde. Anche a me, perché adesso il contraddittorio. Non disperiamo. Maria Di Prato e gli organizzatori dicono: vabbè, ma che problema c'è? Noi stiamo raccogliendo le firme, le raccoglieremo entro fine luglio, è la scadenza, le congeleremo, le terremo lì e le depositeremo il primo giorno utile del 2013. Si può fare questo? A mio avviso no, come dire, non c'è certezza, perché non mi pare che ci siano sul punto precedenti utili, diciamo, a sbrogliare questa difficoltà interpretativa. Però vede, la legge stessa, sia pure nella sua, diciamo, poca chiarezza, come talvolta spesso capita nelle norme, indica i tre mesi, il periodo entro il quale debbono essere raccolte le firme, e i tre mesi, come dire, hanno una loro ragione nella continuità, cioè tu mi devi raccogliere le firme nell'arco di tre mesi in modo tale poi da depositare, qualora fossi riuscito a raggiungere almeno le 500.000 firme. Cioè non ha senso diciamo separare i due momenti, la raccolta e il deposito, perché altrimenti uno potrebbe dire: vabbè, io mi avvantaggio, intanto raccolgo le firme e poi fra un anno le deposito. E no, si perde anche quella sua immediatezza, una continuità. In cui tu chiedi al cittadino di firmare e poi proponi direttamente, depositi la richiesta affinché, come dire, continui l'iter, che poi l'iter è complesso, perché poi c'è il vaglio della Corte di Cassazione, poi c'è il vaglio della Corte Costituzionale, infine ci sono, ammesso che tutte queste abbiano esito positivo, infine ci sono le votazioni dove bisogna raggiungere il quorum del 50,1%. Tra l'altro devo dire una cosa, ci sono molti ascoltatori anche ancora indignati, che dicono: indignati perché ne parlate solo alla scadenza delle firme. Ma io dico, ma scusate, forse questi ascoltatori che scrivono non mi seguono, sono anni che ci battiamo per il tema degli sprechi della politica. Se c'è un tema dibattuto a tutti i livelli, a 360 gradi, anche forse troppo, da anni, è il tema della lotta alla casta, ai cosiddetti privilegi. Quindi dire che ci sia una cappa dell'informazione su questo mi sembra francamente una cosa ridicola. Tanto più nel giorno in cui Maria Di Prato, che abbiamo invitato, non risponde. Ah, le devo dare una notizia, tra l'altro, professor Frosini. Ecco, perché c'è sempre un mistero alle cose. La signora Maria Di Prato ci ha fatto sapere, non è che il cellulare è scarico per la batteria, eccetera, ci ha fatto sapere che non vuole confrontarsi con un costituzionalista, con lei, non ce l'ha con lei personalmente. No, per carità. E quindi aspetta, ecco. Piacere di conoscerla, ecco. Sia pure telefonicamente. Io adesso poi ripeto, al di là del problema che mi causa dal punto di vista giornalistico, nel senso che appunto avevamo previsto questo contraddittorio che non c'è, la cosa che fa un po', uso un termine, un francesismo, incazzare, è che poi uno parla di queste cose e la persona invitata che deve parlare e denuncia una cappa dell'informazione non si presenta perché dice: non voglio parlare con un costituzionalista. Va bene. Professor Frosini, però il tema in sé, al di là delle questioni tecniche, è possibile fare in linea teorica un referendum per andare a intaccare la diaria dei parlamentari, cioè quella parte del compenso che non è stabilita per legge dallo stesso Parlamento? Cioè si potrebbe fare, si può fare? Si può fare perché appunto i limiti, diciamo, espliciti che la Costituzione prevede all'articolo 75 per il divieto di leggi da sottoporre al referendum sono leggi tributarie, di bilancio, amnistia e indulto e la ratifica dei trattati internazionali. Su queste leggi non si può tenere il referendum. Poi la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha introdotto altri limiti, però che attengono alle leggi cosiddette a contenuto costituzionalmente vincolato, insomma tecnicismi sui quali non rientra sicuramente la legge che prevede la diaria per i parlamentari. Mi lasci dire però che un referendum sicuramente che funge da stimolo e un, cioè appunto una vibrante protesta contro alcuni privilegi di cui godono i parlamentari, ma una goccia nell'oceano, cioè non è che si risolve la questione della cosiddetta casta, ben altri dovrebbero essere gli interventi per regolarizzare e moralizzare, diciamo, la vita pubblica politica. Comunque ben venga questa iniziativa che quantomeno sollecita un po' il corpo elettorale e si spera anche gli stessi parlamentari, perché vede, talvolta il referendum non ha solo la finalità di portare a compimento il voto e la realizzazione dell'abrogazione, ma anche di stimolare il legislatore, sì, sì. Come a dire, vedi che ci sono 1 milione di cittadini che hanno firmato per questo referendum, quindi ti accorgi che la richiesta è molto forte, prendine atto e cambia certo. La legge. Allora vediamo 800 24 00 24, ripeto, abbiamo invitato anche Maria Di Prato dell'Unione Popolare, ma insomma non vuole confrontarsi con un costituzionalista, non vuole confrontarsi su questo tema. Sentiamo Giorgio che ci ha chiamato da Pesaro. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Lei ha firmato? Facimi, io sono andato anche a votare. Cosa vuol dire? A firmare. Però, cioè, sì, pensavo avesse già fatto il referendum e tutto. No. È andato a mettere la sua firma in comune. Addirittura due. Una non ho capito bene perché, però ero lì, ho messo anche quella. Come due? Scusi. Come due? Lei ha firmato due volte con il suo stesso volte. Nome. In comune di Pesaro potevo firmare due volte. Addirittura se ne era la terza, ma era stata abrogata. Quindi questo non le so, però essere chiaro fino in fondo. Ma io non la sto seguendo. Cioè lei ha messo due firme a suo nome. Due firme a mio nome. Una era per l'abrogazione appunto degli stipendi o tutto quello che era. Io addirittura ho chiesto anche se potevo aggiungere alle gare una lettera con delle parolacce, perché era normale che potevo fare, giusto? Ah, si poteva fare un allegato con delle parolacce, perché ma lei è andato lì come andare al lettino dello psicologo, dove si voleva un po' sfogare. No, io infatti rappresentante, sono libero professionista e le posso garantire che quello che viviamo non è per niente bello, e di conseguenza la colpa non è solo la mia e non è sicuramente solo di chi si governa. Però ecco, tutto quello che va contro loro in questo momento viene amplificato. Ecco, ma lei ci crede a questa raccolta? Perché ha sentito il professor Frosini, cioè il timore di molti costituzionalisti è questo, che sono raccolte di firme che non per malafede, ma non potranno portare a nulla in concreto. Perfetto, no? Però il professore ha detto anche un'altra cosa molto bella. Ha detto che questo dimostra che c'è in atto un qualcosa di non buono verso la politica, giusto? E l'ha detto chiaramente con parole molto eleganti, certo, e molto... Certo. È molto molto giuste, e gli faccio i miei complimenti perché ha parlato molto bene. Ho capito, però Giorgio, ci voleva una raccolta di mobilitare le persone per sapere che la gente non ne può più della politica. Basta leggere i giornali, io che ho un po' il polso anche degli ascoltatori, quando facciamo questi temi la gente è infuriata, se le devo dire gli insulti che sono arrivati nei confronti dell'ex presidente dell'associazione dei consiglieri regionali del Lazio, che poco fa ci ha detto che stanno facendo ricorso alcuni per la decurtazione del vitalizio, questo a dire la gente non ne può più. Comunque la ringrazio Giorgio, vorrei andare a Varese da Filippo, buongiorno. Buongiorno. Niente, io guardi, la mattina l'ascolto sempre, a volte per farmi male, perché... Addirittura. Sì, guardi, no, ma non tanto per lei, quanto per... nella maggior parte dei casi, tranne rare eccezioni, ascolto i suoi ospiti, che sono per le volte sono onorevoli, e capisco che questi onorevoli rappresentano tutti, tranne che gli italiani, ma rappresentano solo se stessi. Per quello dico, non vado a firmare nei vari referendum, e avrò anche delle difficoltà ad andare probabilmente a votare a maggio, quando sarà, perché onestamente ci credo poco, anzi comincio a crederci molto poco, e sono estremamente pessimista, perché in una situazione come questa si lascia spazio a tecnicismi. Comunque lei non è andata a votare il suo comune per questo referendum, ma non ci credo nel modo più assoluto. Mi spiace per gli organizzatori, probabilmente sono animati da anzi, il motivo è nobile ed estremamente condivisibile, se fossero venuti qui a dircelo dopo aver preso un appuntamento. Comunque grazie, Luca, dispiace, vabbè, succede. Luca da Parma, buongiorno. Buongiorno, dunque intanto anch'io non sono andato a votare, mi dispiace per... A firmare, siamo in fase di raccolta firme, sempre che d'accordo, serve. D'accordo, ma visto che siamo così precisi, io volevo puntualizzare una cosa. dato che anche dalle sue centraliniste sì, mi è stato chiesto se volevo intervenire, io ho detto voglio intervenire circa le retribuzioni dei parlamentari, e mi ha detto no, un conto sono le retribuzioni, un conto è il referendum. Sì, allora, visto che siamo così precisi e che diciamo votare, firmare il referendum, non le retribuzioni, eccetera, avete parlato della cassa, come tutti i giornali, delle arrabbiature dei cittadini nei confronti della cassa, ma anche voi, come tutti i giornali, vi assicuro, ne leggo tantissime, se vuole le faccio anche l'elenco. Cosa facciamo? Non avete parlato a sufficienza del referendum. E le dico un'altra cosa. Non ma mi scusi, Luca, adesso ne stiamo parlando di questo referendum. Adesso? Però, mi scusi, ma lei ha capito che abbiamo invitato la presidente coordinatrice del Movimento Unione Popolare che non si è presentata a parlare? Allora, ci si fa una colpa del fatto che c'è una cappa dell'informazione. Quando uno ne parla si dice, ma ne parlate solo a 3 giorni dalla fine della raccolta firme e invitata non interviene. Che devo fare? Mi permetta, se io devo fare la figura dello stupido in diretta, No, dica. Volentieri, però le dico una cosa, solamente quando mi sono prenotato per l'intervento mi è stato detto, un momento, con calma, mi hanno detto, tra l'altro in modo neanche tanto gentile. Oh madonna, ma non faccia la cronistoria. Ma guardi che sono gentilissime. Allora devo difendere a spada tratta il nostro centralino. Sono persone di una professionalità esemplare, le nostre centraliniste. Io alla mia segretaria dico di rispondere più gentilmente. Lei deve fare un intervento per sfogarsi contro le centraliniste di Radio 24 che hanno tutta la mia solidarietà, sono delle professioniste straordinarie. Non rischia il mio tempo facendo la figura dello stupido, le dico, abbiamo tempo in due, mi do dello stupido da solo, finiamo prima. Però io dico solo una cosa: a me è stato detto, no, guardi, lei deve intervenire sul referendum e non sulle retribuzioni dei parlamentari. Allora, se siamo così precisi, penso che la cosa debba valere per tutti. Nessuno non vi dà atto del fatto di non aver parlato sempre in tutte le trasmissioni delle arrabbiature dei cittadini sulle retribuzioni dei parlamentari. Ma del referendum no. Va bene. Tanto è vero. Quando ne ho voluto parlare oggi la presidente del referendum non si è presentata. Lei è sintomo di serietà questo? Sottolineate non poco per far vedere. Guardi che mi ha creato un serio problema. Forse lei non sa cosa vuol dire fare una trasmissione radiofonica. Se invita un protagonista della trasmissione che un minuto prima della messa in onda risponde che non interviene più, le assicuro che è un discreto problema. A 3 giorni dalla scadenza del referendum. Vabbè. Questi numeri non sono un'opinione. Allora, la mia colpa è averla invitata solo 3 giorni prima del referendum. La mia colpa è non averne parlato tutti i giorni negli ultimi 2 mesi. La mia colpa è qualunque cosa faccio sbaglio. Se la invito a 3 giorni del referendum sbaglio perché è troppo presto. Ma perché non l'ha invitata un mese, non ne avete parlato un mese prima? Ma meno male, così mi dava una buca un mese prima. Evidentemente. Magari sarebbe stata l'occasione per andare alla buca qualche giorno dopo. Va bene, siamo nel regno dei sospetti, questo è il paese dei sospetti. Se c'è una persona che si è occupato di questi temi, anche se vuole, non del referendum, va bene, ce l'ho contro questo referendum e ne sto parlando da mezz'ora, ma solo a 3 giorni dalla fine delle firme. Delle vostre trasmissioni, mi scusi. Infatti, no, sto dicendo, non ne ho mai parlato del referendum, ma siccome secondo lei ne sto parlando solo a 3 giorni, c'è il sospetto che io stia boicottando il referendum. Lei non mi deve fare le cose che io non ho. E allora qual è il problema? Sto dicendo, semplicemente io sto constatando una cosa. Che ne parlo solo a 3 giorni. Lei ha parlato della casta, ma non ha parlato. Così però se lei constata una cosa casualmente ne parliamo a 3 giorni. Vedi che lei dice, se dice casualmente lei nutre un sospetto, se dice lei che io ne parlo casualmente nutre un sospetto. Lei è un dato di fatto che se ne parla il 26 il referendum che scade a fine mese. Va bene, di un referendum del quale è un dato molte di fatto, conviene con me che sia un dato sì, di fatto. Guardi, per molti è un dato di fatto anche che sia una bufala questa raccolta firme. Però una bufala, bastava ascoltare il giornalista. Quindi lei sta dicendo che è pure una bufala. All'inizio della telefonata le avete che non sono neanche Va bene, la ringrazio Luca. Andiamo, quanto c'è ancora da finire? Professor Frosini. No, no, scusi, se l'ho coinvolta in questa. Beh, no, ci piace così. No, ci piace così, voglio dire. Poi ecco, ci accusano di averne parlato troppo tardi, evidentemente. Se si andasse a votare a novembre, come è una delle ipotesi, però, che verrà sciolta nel caso più avanti, in questo caso, allora le firme, non essendo più nell'anno precedente, ma nello stesso anno, varrebbero? È bella domanda, penso di sì. Pensa di sì. Quindi potremmo sperare, per chi sta raccogliendo le firme, che si vada a votare a novembre. Quindi oddio, le firme possono essere comunque raccolte successivamente. Non è che non si farà più questo referendum, né si potrà mai fare. Viene soltanto posticipato, ma nessuno nega il diritto all'iniziativa referendaria, ci mancherebbe altro. Soltanto che i tempi non lo consentono per varie congiunture che la legge prevede. Ma il referendum si potrà fare, invece di farlo l'anno prossimo lo si farà più avanti, ma ripeto, non c'è un impedimento allo svolgimento del referendum, c'è uno slittamento a seguito di una previsione normativa molto chiara. In ogni caso io la ringrazio, stiamo a vedere adesso se queste firme ci saranno. Grazie per essere stato con noi, professor Tommaso Edoardo Frosini, docente, ricordo, di diritto pubblico comparato a Napoli. Che dire, ma no, ma non è che poi mi dicono solidarietà, non si arrabbio, ma non mi sto arrabbiando, ci si confronta, ci piace anche il confronto diretto, tanto domani è l'ultimo giorno e poi me ne vado in vacanza, non ditelo al sottosegretario Polito, ma è così. Ringrazio Elisabetta Fusconi in redazione, Fabio Cantadori in regia, l'appuntamento è rinnovato domani alle 7:20, ci trovate anche su Twitter, @AlinoMilan oppure @24Mattino, a domani.